Qualche giorno fa ho lanciato un sondaggio sulla pagina Facebook per chiedere se c'era interesse sull'approfondire il tema del sapere dire di no. Su 319 risposte, il 99% ha detto di sì. Sì, effettivamente dire di no è una cosa estremamente difficile, ma anche estremamente importante, perché sul piatto della bilancia dall'altra parte c'è l'integrità della nostra vita, l'integrità dei nostri impegni, perché se diciamo sempre di sì a qualunque cosa, a qualunque proposta, a qualunque persona, facilmente ci troveremo disintegrati in mille direzioni e rischieremo di perdere un pochino l'integrità della nostra vita, della nostra direzione, dei nostri progetti. Ora è importante però chiarire di quali no stiamo parlando, perché certi no sono no alla vita, sono no agli altri, no agli impegni, no a prescindere. Certi no sono frutti di pigrizia, disfattismo, egoismo, derivano dal nostro volere una vita comoda, da non volerci impegnare in nessuna cosa. Ci sono invece dei no che in realtà sono dei sì, perché sono dei sì alla nostra vita, ai nostri progetti, sono dei sì anche alle persone che sono importanti e prioritarie per noi. Allora, quali sono i motivi per cui per noi è così difficile saper dire di no? Primo, a volte non sappiamo dire di no perché abbiamo timore delle conseguenze che questo porterà sulla percezione di noi stessi. Istintivamente, infatti, siamo portati a pensare che dire di sì significa che siamo disponibili, che siamo aperti agli altri, che siamo buoni. E invece pensiamo che dire di no sia frutto di egoismo. E allora, nel momento in cui noi siamo tentati di dire un no, ci viene l'idea, ci viene la paura di dire: ma se io dirò questo no, allora significa che non sono buono, significa che non sono generoso, significa che sono egoista. Il dire di no non ci rende necessariamente egoisti ed insensibili agli altri e alle loro necessità. Questo dipenderà piuttosto dalle motivazioni, dal modo, dal contesto in cui noi diciamo il nostro no. Secondo, abbiamo paura di dire di no perché vogliamo mantenere l'immagine di una persona buona e disponibile anche di fronte agli altri. Abbiamo l'istintivo desiderio di andare d'accordo con gli altri, di compiacerli, e se il nostro no rischia di non compiacerli, ecco che questo ci mette molto in difficoltà. A questo si va ad aggiungere anche la paura di essere criticati, la paura di pensare che stiamo abbandonando, rifiutiamo gli altri, e quindi anche la paura di poter essere noi abbandonati e rifiutati dagli altri. Terzo, con le persone care, particolarmente vicine a noi, a volte siamo in difficoltà a dire di no perché li abbiamo abituati, perché li abbiamo viziati, perché i nostri continui e indiscussi sì hanno creato intorno a noi dei partner, degli amici, dei genitori o dei figli viziati, abituati al nostro sì, incondizionato, sempre e comunque. Che so, in quella situazione scolastica sei sempre e comunque pronto ad aiutare tuo figlio? Di fronte a quell'amica che ti chiede un passaggio per andare in quel posto, tu, anche se sei stanca morta, gli dici sempre e comunque di sì? Se quella persona ti fa una richiesta anche fuori tempo massimo, tu sei sempre pronto a tamponare il suo ritardo? In questi, come in altri casi, il nostro sì indiscusso in un certo senso deresponsabilizza l'altro, gli impedisce di prendere coscienza che è lui che dovrebbe occuparsi di certe cose e non sempre e comunque tu. I nostri cari devono capire che abbiamo dei limiti e che non dobbiamo sentirci in colpa per questo e che ognuno ha delle responsabilità da mantenere e portare avanti personalmente. Un quarto motivo per cui a volte proprio fatichiamo a dire di no può venire anche dalla nostra fede e dalle nostre convinzioni religiose. Che cosa intendo dire? La persona religiosa può avere delle convinzioni molto profonde che lo faranno sentire in colpa se dirà un no. Convinzioni di questo tipo, che so, Dio ci chiede di essere sempre disponibili. Noi dobbiamo sempre essere pronti a fare la volontà di Dio. Intendiamoci, io sono d'accordo su questa frase e credo che cercare di fare la volontà di Dio sia proprio importante. Il problema però è a monte. Come facciamo nella singola situazione ad essere sempre sicuri che quella cosa che ci viene chiesta è davvero la volontà di Dio? Certo, se siamo frati oppure suore, con il voto di obbedienza abbiamo legato la nostra volontà alla volontà di un altro e crediamo che il seguire la volontà di un altro, del nostro superiore in questo caso, corrisponda al seguire la volontà di Dio. Ma questo è un caso molto particolare. Una persona normale, passatemi il termine, non deve necessariamente pensare che tutto quello che un'altra persona gli chiederà debba essere per forza la volontà di Dio. Un esempio concreto, e mi rendo conto in questo momento che mi sto un po' dando la zappa sui piedi, ma credo che sia importante, fondamentale per ognuno di noi avere chiaro questo concetto. Ad esempio, nella comunità cristiana ti chiedono di assumerti una responsabilità. Che cosa devi fare? Devi subito rispondere di sì? Oppure devi metterti lì con calma e valutare l'impatto che questo tuo sì porterà nella tua vita, perché tu hai anche altre responsabilità. E allora forse il Signore ci chiede di assumerci gli impegni non in modo cieco, ma in modo responsabile, in modo ragionato, sicuramente tenendo sempre vivo noi il senso di generosità e di servizio anche verso la comunità cristiana. Avere una chiara coscienza di una o più di queste motivazioni che ci inducono a volte a dire di sì e ad aver paura invece di dire di no, credo che sia proprio importante, perché ci impedisce di rimanere intrappolati in queste convinzioni come in delle ragnatele dalle quali non riusciamo a divincolarci e nelle quali la nostra libertà non è esercitata in modo responsabile. Nei prossimi video cercheremo di approfondire ancora questo discorso, innanzitutto cercando di capire ancora meglio perché in certe situazioni è veramente importante saper dire di no. E infine cercheremo di capire anche quali sono qualche stratagemma che potrà esserci utile in certi casi per cercare di pronunciare sempre dei sì e dei no che siano veramente responsabili. No, tranquillo, non sentirti in dovere di condividere questo video o di iscriverti al canale, ci mancherebbe altro, però almeno un mi piace potresti metterlo, dai, che cosa ti costa?